Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gerardo Lamattina, regista del film Il Drago di Romagna, al cinema da sabato 25 gennaio 2020. Gerardo, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Come ce lo presenteresti in breve? Beh, con una piccola battuta, insomma, me la cavo sempre, che diciamo che il Mahjong è il primo gioco cinese made in Italy. Molto simpatico, perché questo per quanto riguarda l'argomento del film. Sì. Quanto riguarda il film, è una curiosa storia di ibridazione culturale, molto particolare, perché appunto riguarda un gioco molto cinese come quello del Mahjong, ma che incredibilmente, forse non troppo incredibilmente, ma insomma curiosamente, in Romagna ha trovato un terreno così fertile da diventare appunto un gioco cinese. Un gioco appunto cinese, ma made in Italy, perché è stato completamente rifatto e reinterpretato. Com'è nato tutto? Tutto è nato da un dato biografico un po' curioso, che è questo: quando mia figlia era piccola io la portavo al bagno, ma il bagno in Romagna, come tutti sanno, non è il bagno, non è la toilette, ma è lo stabilimento balneare d'estate. E curiosamente vedevo una serie di bimbi sciamare incontrollati sulla spiaggia e mi chiedevo cosa sta accadendo, come mai, e poi ho scoperto che le loro mamme erano lì che giocavano a Mahjong in maniera del tutto assatanata, era impossibile distrarle, e quindi ho scoperto il gioco del Mahjong. Mi sono fermato ad osservarlo, perché era un gioco di derivazione chiaramente cinese, perché ci sono appunto dei diagrammi cinesi, ci sono queste teste che hanno un rumore assolutamente particolare che fa parte dell'infanzia di molti romagnoli, e quindi ho detto: ma guarda che cosa strana, e mi sono preso un appunto, come faccio spesso, perché è un argomento che voglio approfondire, potrebbe essere l'argomento di un film, se non appunto di un documentario. È nato così. E poi come hai deciso di svilupparlo? Poi dopo, come accade nel mondo del cinema, insomma nel mondo della creazione, in maniera del tutto casuale o quasi del tutto casuale, ho mandato questi pochi appunti che avevo preso. All'inizio il film si intitolava E Majò, che è la traduzione, diciamo, in romagnolo di Mahjong, quindi il Majò, cioè letteralmente è l'articolo, e ho mandato queste due righe alla produttrice Giulia Santoro di Popcast di Bologna, però senza non farci troppo affidamento. Invece lei mi ha chiamato il pomeriggio stesso e mi ha suggerito: questa idea è bellissima, rientra benissimo nelle linee editoriali della mia casa di produzione, che è popolare e culturale allo stesso tempo, quindi esplora dei temi popolari ma in maniera culturale, e quindi ben 2 anni e mezzo fa ormai è fatto tutto così. Poi dopo abbiamo avuto il sostegno della regione, abbiamo fatto un percorso produttivo solito, però anche un momento molto importante è stato l'incontro con il coproduttore cinese milanese di Micromedia Communication. Sono dei ragazzi giovani di Milano di seconda generazione, molto molto attivi, che sono il loro primo film, però sono stati un partner essenziale sia dal punto di vista produttivo, ma soprattutto per me dal punto di vista anche proprio diciamo di confronto culturale su quello che è una cultura che è apparentemente così molto lontana come quella cinese. Il tono è quello da commedia, e poi su cosa volevi centrarlo il film? Il tono è quello da commedia, perché la Romagna è sempre un po' commedia, se vogliamo, insomma, la Romagna fellliniana, che io ho trasformato in lamattiniana, anche se io, insomma, un po' fa parte del mio cinema, comunque, avere uno sguardo distaccato ed ironico sulle cose, però in questo caso noi siamo partiti da un dato documentario, quello del documentario, appunto raccontare il gioco del Mahjong e la sua diffusione in Romagna, ma poi a me questo non bastava, mi interessava ibridare anche la forma cinema, e quindi ho scelto di raccontarlo in forma di fiction anche, e quindi abbiamo immaginato la storia di Luisa, o la Luisa, che è un personaggio archetipico ormai della Romagna, la cosiddetta Zora. La Zora, per chi non lo sapesse, è appunto questa figura di casalinga a tutto fare, molto energica e volitiva, e quindi abbiamo deciso di raccontare la storia di Luisa quando finalmente riesce ad andare in pensione, ma comunque anche quello è abbastanza attuale, come dire, e decide di andare, di coronare il suo sogno, che è quello di andare in Cina a conoscere i cinesi, o comunque chi ha in qualche modo creato il gioco del Mahjong, e quindi tutte le vicende si tipano attorno a questo piccolo antefatto. Poi ovviamente ci sono una serie di scontri e di incontri che lei fa, in particolare con la sua famiglia, con la figlia che a sua volta vuole realizzare dei sogni, e curiosamente i sogni della figlia diventano gli incubi della mamma, e gli incubi della mamma diventano i sogni della figlia diventano gli incubi della mamma, insomma, questo anche in termini visivi è molto presente. Nella realtà com'è questa mescolanza culturale? Devo dire che, come sai, insomma, storicamente la Romagna è una terra accogliente, e io mi auguro che lo rimanga molto, ma sono anche molto fiducioso di questo. I cinesi sono una comunità un po' particolare, perché sono molto presenti numericamente, ma sono in qualche modo poco presenti, non li si nota se non quando appunto c'è a che fare con loro, perché ci danno il bazar piuttosto che nel ristorante cinese. Infatti i ragazzi di Comedia Communication fanno un lavoro che a mio avviso è veramente importante e molto bello, smontano una serie di video che loro fanno, tutti gli stereotipi sui cinesi, ma quelli anche più triti e ritriti, tipo come mai non vediamo i cinesi quando muoiono, dove si vorranno a finire, tutta una serie di robe anche ridicole, come mai i cinesi sono bravi in matematica, come mai i cinesi pensano solo a lavorare, non hanno nessun concetto di tempo libero, cose che smontano in maniera molto divertente. Io nel film ovviamente ho tentato comunque di raccontarli, e ci sono riuscito in parte, nel senso che l'aspetto che mi interessava di più, che era l'aspetto sociale del gioco, e anche l'aspetto legato al fatto che è un gioco che in qualche modo ha un tipo di socialità che sta scomparendo. Infatti c'è un confronto generazionale tra la nonna Luisa e il suo nipote e i suoi amici cinesi, gli amici cinesi del figlio, e quindi, come spesso accade, per fortuna gli amici del figlio sono amici, al di là di essere cinesi. Infatti nel film li definisco cinesi italiani, italiani cinesi, ma con una battuta, dico, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Come sarà la distribuzione? È super indipendente, che però per ora sta andando molto bene, diciamo che viene distribuito direttamente da Popcast e da Micromedia. Per ora usciamo nelle principali città italiane dove ci sono delle comunità cinesi molto forti, e lo facciamo in una data molto simbolica, che è l'inizio del Capodanno cinese. Infatti il 25 gennaio è l'inizio del Capodanno cinese, ovviamente usciremo a Ravenna, poi dopo saremo a Bologna, poi saremo a Milano, poi saremo a Prato, e poi saremo anche finalmente a Roma il 9 di febbraio. Tutto questo lo si può trovare sul sito dragodiromagna.com, oppure ovviamente sulla pagina Facebook. Il Drago di Romagna al cinema da sabato 25 gennaio 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Gerardo Lamattina. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie a voi e a presto. Con Chiara Manni dell'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese per parlare dell'ottava edizione di DocuD, concorso di cinema documentario. A Pescara, al Museo Colonna, dal 23 gennaio al 14 maggio 2020. Chiara, ben trovata. Grazie anche a te Federico, un saluto a tutti. Come sempre ci ritroviamo per questa rassegna e concorso DocuD, che appunto per 2 anni è diventato, oltre che una rassegna, anche un concorso. Il concorso si chiama Panorama Italiano ed è praticamente uno dei 4 concorsi che avevamo al Festival del Documentario d'Abruzzo, che abbiamo trasferito in DocuD. Quindi sono dei documentari italiani della passata stagione, quindi 2019, che abbiamo selezionato tra quelli che hanno ottenuto anche dei riscontri in festival nazionali e internazionali, e a volte sono stati anche premiati, quindi abbiamo cercato di scegliere tra quelli più interessanti. Dovrebbero essere 6, dico dovrebbero perché siamo ancora in fase di selezione, in quanto il concorso inizierà a febbraio, precisamente il 13, giovedì 13 abbiamo la prima proiezione. Quindi stiamo ancora selezionando e non posso dire molto sui titoli, posso solo dire che sono tematiche sempre di cinema del reale, molto sul sociale, e ognuna affronta un argomento diverso. La maggioranza tematiche, diciamo, che si occupano di problematiche sul territorio italiano, appunto perché il concorso è il panorama italiano, cioè di registi italiani, e quindi abbiamo, diciamo, dedicato questo concorso alle tematiche di argomento della nostra nazione. Invece fuori concorso abbiamo sempre la sezione dedicata all'arte contemporanea, e quella è una sezione internazionale perché ci sono registi anche europei, anche quest'anno c'è un regista colombiano, che trattano di artisti, sia pittori, scultori, che sono contemporanei, spesso continuano ancora a lavorare, altre volte, come abbiamo nell'ultimo incontro di arte, che è praticamente il giovedì 14 maggio, abbiamo un documentario su Ettore Spalletti di Pappi Cossicato. Purtroppo Ettore Spalletti è venuto a mancare da poco, però ci sembrava doveroso dedicargli una giornata, perché tra l'altro Ettore Spalletti, oltre a essere un artista contemporaneo molto conosciuto in Italia e all'estero, è di origine proprio della provincia di Pescara, è nato in un paese qui vicino e quindi è molto conosciuto anche in regione. Chiara, due domande. La prima è se c'è un giorno settimanale fisso dedicato alle proiezioni, e poi se di ogni lavoro sono previste più proiezioni. No, noi abbiamo una proiezione unica, perché a parte il concorso che si dà un'unica volta, anche l'arte intervengono sia i registi che spesso, quando è possibile, l'artista, come nella prima proiezione che inaugura tutto il DocuD, che è giovedì 23 gennaio, e c'è un documentario di Andrés Sánchez Maldonado, appunto questo regista colombiano, che tratta dell'arte di Giuliano Giuliani, che è un artista contemporaneo marchigiano che interverrà insieme al regista. Quindi la proiezione sarà unica, perché ogni proiezione è presentata di solito dal regista, e dove è possibile, dove appunto c'è l'artista, interviene anche l'artista. È lo stesso per Panorama Italiano. E il giorno invece è giovedì, non tutti i giovedì del mese, ma per esempio gennaio abbiamo 23:30, febbraio altri due giovedì e così via fino a maggio. Volevo dire appunto che oltre alla giornata inaugurale del DocuD il 23 di gennaio abbiamo giovedì 30, che è un giorno dedicato al fuori concorso. E siccome va quasi a coincidere col 27 gennaio, che è la giornata della memoria, lo dedicheremo a questa giornata. Quindi ci sarà un documentario sulle tematiche legate alla giornata della memoria, e vediamo se riusciamo ad avere il regista. E vediamo di riuscire ad avere uno dei suoi documentari, perché lui ha fatto tanti documentari dedicati alla Shoah, alla giornata della memoria. Per cui comunque ci sarà questa giornata particolare il 30, sempre di gennaio. In chiusura, per il calendario completo ci lasci tutti i riferimenti in rete? Sì, certamente. Comunque dico che oltre ad avere pagine Facebook, eccetera, c'è www.webankma.it, che è la pagina ufficiale dell'associazione. E non appena abbiamo tutti selezionati di Panorama Italiano, verrà pubblicato tutto l'elenco. Quindi poi lì ci sono anche adesso i programmi di arte, che si possono vedere in dettaglio, perché di arte abbiamo tutto il programma. Nell'insieme sono 5 film di artisti contemporanei, più o meno mediometraggi, alcuni di 60 minuti, altri 20. Però il programma con gli autori, il nome del documentario, gli artisti che parteciperanno alla proiezione, è tutto sul sito www.webacma.it.